Con Costantino Raimondi, che ha curato l'ideazione, la regia e la drammaturgia corporea dello spettacolo Monologo con valigia, in scena a Roma, allo Spazio Diamante, venerdì 14 dicembre. Costantino, ben trovato. Ben trovato, buonasera, grazie. Ci descrivi questo spettacolo? Ma Monologo con valigia è il secondo capitolo di una trilogia basata sull'immigrazione. Il primo spettacolo fu Prove Rewind, poi Monologo con valigia e poi il terzo Radio Tour Eiffel. Parla dell'immigrazione ma vissuta dagli attori stessi. L'idea nacque nel 2007 perché, avendo vissuto 20 anni a Parigi, ero un po' in difficoltà, non sapevo dove più stessi, o tra Parigi, Napoli, tutte le tournée che facevo. Quindi proposi queste idee ai miei attori e iniziamo a lavorarci. Quindi chi si esprime attraverso il clown, attraverso il mimo, attraverso la danza, ognuno con la propria disciplina. Ritornando a Monologo con valigia, i testi sono di Gerasim Dicides e anche le pantomime. Gerasim, chiamato anche Gero, è bulgaro e ci siamo conosciuti 25 anni fa a Parigi, perché ci incontrammo dopo esperienze teatrali personali, ognuno nel proprio paese, insieme anche ad altre persone, alla scuola di Marcel Marceau, che era di mimo corporeo, pantomima, physical theater, e quindi un teatro che propongo è una forma di esperanto sia linguistica che corporea, perché utilizziamo anche linguaggi differenti, un po' come il Gramloo, quindi la tecnica de Clou, l'espressione Le Coq, la tecnica Marcel Marceau con il quale ho lavorato anche 3 anni. Questo spettacolo, quando è stato realizzato e che percorso sta facendo? Questo spettacolo, allora, Prove Rewind viene realizzato nel 2008, Monologo con valigia nel 2009, perché poi, dato che in Prove Rewind erano quattro attori, Gero mi chiese di, perché aveva dei numeri, dei pezzi, di fargli una regia, di incollarli. E quindi prendiamo anche parte del suo pezzo in Prove Rewind ed è nato Monologo con valigia nel 2009. E giriamo da 10 anni con Monologo con valigia e con altri spettacoli, diciamo. E una solo. È una solo. Ci racconti anche un po' l'esperienza di questa compagnia? Ma è un'esperienza, diciamo, che io lavoro con Gero appunto da 25 anni. Poi anche con Sergio Longobardi, Oscar Valsecchi, sono chi viene dalla danza, dal clown, dal mimo, quindi è un po', diciamo, il physical theater, le arti performative e il testo. Questo è il mio linguaggio e lavoro con loro da almeno una quindicina d'anni, 25 con Vero. In questa volta, in questo spettacolo ci sono anche io, perché anche una bambina, nonché mia figlia, dove il monologo è sempre un monologo, però c'è anche un linguaggio metateatrale, perché io ho due ossessioni, il teatro nel teatro e il viaggio, e quindi questi sono ricorrenti negli spettacoli che io propongo. Sì. Costantino, il proseguimento della stagione dove vi vedrà? Ad aprile saremo al nuovo Teatro Sanità a Napoli con due spettacoli, appunto, Prove Rewind e Monologue avec valise, Monologo con valigia. E poi stiamo aspettando, forse dobbiamo partire in Francia, poi in Svizzera per altre cose, però diciamo con gli spettacoli saremo a Napoli aspettando altre date, anche perché diamo corsi di formazione, stage e altro. Ci spostiamo. Ci lasci in chiusura tutti i riferimenti web per seguirvi? Sì, allora io ho un sito che è costantinoremondi.com e per Monologo con valigia c'è il website dello Spazio Diamante, spaziodiamante.com, e quindi vi aspettiamo con grande piacere. Poi anche per farsi una chiacchiera dopo bevendo una cosa, perché il pubblico è fondamentale. fondamentale, importantissimo, e senza le critiche, le opinioni del pubblico non esisterebbe il teatro, e quindi sempre solo un piacere, nel bene e nel male, sperando che sia bene. E allora ricordiamo lo spettacolo Monologo con Valigia a Roma, allo Spazio Diamante, venerdì 14 dicembre. Un saluto e un ringraziamento a Costantino Raimondi, che ne ha curato ideazione, regia e drammaturgia corporea ed è anche in scena. Costantino, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, un abbraccio a voi, anche il 15 siamo in scena e anche il 16, il 14 e 15 alle 21, il 16 alle 17. Perfetto. A presto. A presto, grazie ancora, di nuovo, arrivederci.